in primo piano. Buona giornata e buona Pasqua soprattutto. Benvenuti alla nostra rassegna stampa che ovviamente non può che dedicare molto ampio spazio alle decisioni di Napolitano intervenute nella giornata di ieri. I giornali naturalmente sono molto prodighi di informazioni e interpretazioni. Cercheremo in questi tre quarti d'ora di darvi una sintesi delle maggiori posizioni, quantomeno delle tracce più significative. Allora cominciamo innanzitutto a vedere come la notizia viene presentata sui maggiori quotidiani. Napolitano mette in campo 10 saggi, è il titolo, vorremmo dire, di pura cronaca del Corriere della Sera. Niente dimissioni, resterò fino all'ultimo, e sul governo c'è Monti. Due gruppi di esperti, spiega sempre il titolo del quotidiano di Via Solferino, due gruppi di esperti per lavorare alle riforme economiche e istituzionali. Malumore nel PDL che insiste sull'esecutivo politico. Questa è la titolazione del Corriere della Sera. Avvenire, congelati crisi e governo, scelti 10 saggi. E poi l'editoriale di Marco Tarquinio che parla di doveri ingigantiti. Il Messaggero: Napolitano si affida ai saggi, il presidente resta fino all'ultimo per sbloccare la situazione. Il governo? Monti è in carica. Due gruppi di lavoro sul programma, ma non c'è scadenza. Paletti da Partito Democratico e Popolo della Libertà, Grillo apre. Questa è la titolazione del Messaggero. Repubblica: Napolitano, resto fino all'ultimo giorno. Nomina 10 saggi per risolvere la crisi e rassicura l'Europa. Un governo c'è e lavora. Il titolo dell'editoriale di Scalfari, come sapete, è una tradizione della domenica di Repubblica. Un incubo di meno. L'incubo di meno sono, appunto, secondo l'editoriale di Scalfari, le dimissioni, le voci di dimissioni del presidente Napolitano. Che sono invece state smentite dal presidente stesso. Lo vedremo poi anche più in dettaglio con Il Sole 24 Ore, vi spiegherò perché. La Stampa: Napolitano in campo i saggi, e poi il presidente resto fino all'ultimo giorno. Bersani: prima le elezioni del Colle, poi il governo. Ancora dal discorso tenuto ieri poco dopo l'una dal presidente della Repubblica: Monti operativo, avanti con lui, e rilancia le larghe intese, due gruppi di esperti per un programma da condividere. Grillo plaude. Questa è la titolazione della Stampa. Se andiamo nei giornali più schierati, l'interpretazione della decisione di Napolitano si fa un pochino più articolata. Napolitano congela la crisi, è la lettura che dà il titolo dell'Unità. Resto al mio posto, Monti operativo, nominati 10 saggi. E poi Bersani che dice: sono in campo. Già negli editoriali però si parla di uno sbaglio per questa via presidenziale e si ricordano i paletti dell'Europa. Sono gli editoriali sull'Unità affidati a Massimo Luciani ed Emilio Barucci. All'interno poi l'Unità fa anche un'analisi di questo modello scelto da Napolitano con il ricorso a dei saggi, a degli esploratori o come vogliamo chiamarli. È un modello che ha degli esempi in Belgio e in Olanda. Se ne occupa, tra gli altri giornali, Paolo Borioni, in pagina 3 dell'Unità. Modello made in Benelux, motivi e rischi. Spiega Borioni, l'idea dei tavoli degli esperti esposta ieri da Napolitano può richiamare quanto accade in Belgio e Paesi Bassi, con la loro tradizione di coalizioni imprevedibili e mutevoli, si intende il Belgio e i Paesi Bassi. In questi due paesi sono nel tempo sorte figure, mai in effetti costituzionalmente definite, chiamate più o meno informatori. Le personalità prescelte per questo ruolo non agiscono con un mandato esplorativo o di presidente incaricato, si dedicano invece a dipanare la sempre intricata matassa delle differenze programmatiche e spesso delle diffidenze di carattere etnico che dividono, per la verità crescentemente, i partiti belgi e le distanze confessionali o ideologiche tipiche della democrazia. Questo accade appunto in Belgio con degli informatori, dei saggi, se usassimo la terminologia preferita invece ieri dal Presidente della Repubblica, che hanno il compito, come dire, di preparare la strada alla formazione di un governo, di individuare quali sono i punti su cui lavorare. Questo tipo di spiegazioni naturalmente lo trovate trovate anche in altri giornali, ad esempio sul Corriere della Sera. Il giornale ha una titolazione decisamente più aggressiva: il golpe di Napolitano, Quirinale con i superpoteri, si inventa due gruppi di esperti per prendere tempo e lascia il paese in mano a Monti, stracciata la Costituzione. Berlusconi: quelle commissioni non ci rappresentano e nessuno ci ha chiesto l'ok. Sostiene la titolazione del giornale un contributo di Vittorio Feltri: Italia presidenzialista ma a sua insaputa. Altro che dimettersi in anticipo sulla scadenza del mandato, così scrive Feltri, Giorgio Napolitano non mollerà l'osso sino al 15 aprile, quando cominceranno i traffici per la sua successione, dopo 7 anni tribolati, durante i quali egli ha fatto di tutto per dimostrare che la Repubblica presidenziale non solo è necessaria, ma esiste già. Bisogna unicamente renderla ufficiale, modificando la Costituzione e di conseguenza la legge elettorale. Feltri coglie il destro, come dire, dell'iniziativa di Napolitano per dire: tanto vale a questo punto avere un capo dello Stato che venga eletto direttamente dai cittadini. Così scrive Feltri sull'editoriale, sul commento che trovate su Il Giornale di oggi. Il Manifesto, pur senza, come dire, parlare di golpe, come invece fa il giornale, che come sapete quotidiano di opposta ispirazione editoriale e politica, ha questo titolo: Ho visto un re. Il presidente Napolitano resta, dà fiducia la sua a Monti, nomina i saggi delle larghe intese per imbastire le riforme istituzionali e il programma economico. La crisi politica italiana si avvita nell'ultimo bizantinismo del Quirinale. Questo il duro titolo, il duro richiamo in prima pagina del Manifesto rispetto alla decisione di Napolitano. Quindi due quotidiani, diciamo, di segno opposto, ugualmente critici, ugualmente aggressivi nei confronti della decisione della nomina dei saggi presa dal Presidente della Repubblica. Il Fatto Quotidiano, con un certo sarcasmo che è come dire, spesso ricorrente nelle sue titolazioni di prima pagina: Napolitano, l'idea geniale, il governo non serve più. Altro che dimissioni, il capo dello Stato resta fino al 15 maggio, resuscita l'esecutivo Monti, regala al suo successore due commissioni per spianare la strada all'accordo PD-PDL, una soluzione mai vista. Tutti contenti, compreso il Movimento 5 Stelle, ma l'Italia con i suoi giganteschi problemi resta senza guida. C'è anche l'editoriale di Marco Travaglio, molto molto duro, dice: da noi la rivoluzione non c'è stata, siamo il paese della controriforma senza riforma, della restaurazione senza rivoluzione, il paese che quando ha le idee confuse fa una commissione, anzi due, per confondersele un altro po'. In un altro paese la mossa del presidente verrebbe chiamata col suo nome: golpe bianco, commissariamento della politica e degli elettori, e poi l'antipolitico sarebbe Grillo con i saggi al posto dei colonnelli. Nel paese di Pulcinella è il tragicomico risultato delle non dimissioni di Napolitano, seguite alla non vittoria PD, alla non sconfitta PDL, al non statuto Movimento 5 Stelle, alla non rinuncia di Bersani, dopo il fallimento delle convergenze parallele e della non sfiducia a 5 Stelle previa pausa di riflessione. Questo in un brano dall'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. La Padania, quotidiano della Lega, organismo della Lega, avanti contro la crisi, passa il modello Lega, da martedì attivi due gruppi ristretti di saggi scelti da Giorgio Napolitano per superare lo stallo politico e affrontare i problemi dell'economia. Duro quanto il giornale e, come abbiamo visto, il Manifesto, la titolazione di Libero: è tornata la monarchia. Napolitano rinvia la formazione, il nuovo governo e le elezioni. Resta Monti. Il Parlamento è esautorato, le riforme le scriveranno 10 saggi. La democrazia è sospesa, fino a data da destinarsi. Se non è un golpe, ci manca poco. Silvio e PD costretti a sostenere il futuro esecutivo del presidente. Non ci va leggero, come dire, nella titolazione Libero, che poi appunto rincara la dose con l'editoriale di Maurizio Del Pietro e altri titoli: che succederà ora, il piano di Re Giorgio, dalle cabine di regia fuori Falchi e Grillini. E allora negli ultimi 30 secondi, negli ultimi pochi 2 minuti che ci rimangono, vediamo un'occhiata invece al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, torniamo quindi sulle vicende più specificamente economiche che hanno portato a maturare la decisione di Napolitano. Napolitano: nessuna intesa sul governo. governo, avanti con Monti e Parlamento, sono operativi. 10 saggi per le intese di programma. E Folli scrive un quadro per il governo del presidente futuro. Quindi il commentatore politico del nostro quotidiano dice: anche chi guarda con qualche scetticismo all'idea dei due gruppi di studio sulle riforme, soprattutto per i risultati pratici che ne possono derivare, ammette che Giorgio Napolitano ha dato prova una volta di più di fantasia politica. Lo stallo in cui siamo immersi rimane tale, ma lo sforzo del Quirinale è un messaggio di ottimismo da parte di chi non si arrende alla paralisi, un messaggio che vale soprattutto per quello che sottintende. Del resto, non dimentichiamo che la giornata, scrive sempre Folli, era cominciata in un'atmosfera cupa. La sola ipotesi che il presidente pensasse a dimettersi, fa poca differenza se per scoramento o desiderio di esercitare pressione sulle forze politiche, aveva messo in agitazione il mondo dell'economia, agghiacciato al pensiero di cosa sarebbe successo martedì alla riapertura dei mercati. Quando si è capito dalle battute iniziali del comunicato letto in prima persona dal capo dello Stato che il rischio era svanito, il rischio di dimissioni di cui parla Folli, tutti hanno tratto un sospiro di sollievo. E quando Napolitano ha richiamato in vita il governo Monti, in fondo mai sfiduciato dalle Camere, questa la battuta del Presidente della Repubblica, si è capito che stava mandando un segnale positivo all'Europa, sempre con l'intenzione di rabbonire a breve le borse. Certo, non è una prova di forza del nostro sistema, scrive Folli, nessuno poteva e può crederlo, ma all'interno di una grave debolezza, cioè di uno stallo, Napolitano ha giocato fino in fondo le carte di cui disponeva, non potendo formare un nuovo governo con un nuovo premier, causa il groviglio dei veti incrociati, ha evitato altri traumi e ha fatto ricorso alla fantasia istituzionale. Questo potete leggere nel punto di Stefano Folli, l'abituale commento politico sul Sole 24 Ore. Bentornati alla rassegna stampa del giorno di Pasqua, rinnoviamo naturalmente i nostri auguri. Stiamo esaminando come viene letta, come viene raccontata la decisione di Napolitano presa ieri. Come sapete, si parlava persino di dimissioni del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha detto invece che non si dimette, ha ricordato che il governo Monti è un governo mai sfiduciato, quindi pienamente in carica, ha deciso la costituzione di due gruppi di saggi che devono appunto occuparsi delle intese di programma. Qualche giornale ricorda è un modello già sperimentato in altri paesi, ad esempio in Belgio e in Olanda, dove c'è una difficoltà quasi cronica a formare le maggioranze anche per la composizione di diverse fasce di popolazione. Qualche giornale parla appunto di etnie diverse che compongono questi paesi, e quindi questa funzione di informatori, di esploratori, di saggi è già stata sperimentata in diverse occasioni. Le dimissioni di Napolitano, tra l'altro, sono state anche al centro di una indiscrezione, di un passaggio che ha interessato direttamente una collega del Sole 24 Ore, Lina Palmerini, che è stata l'unica collega che ha potuto parlare a tu per tu in diretta con il presidente Napolitano, mentre appunto il presidente usciva, lasciava la sala della conferenza stampa. È stato trattenuto per un istante, si è trattenuto a parlare proprio con la nostra collega. Trovate l'articolo di Lina Palmerini oggi a pagina 3 del Sole 24 Ore, e riferisce così: ammette di aver pensato alle sue dimissioni proprio mentre esce dalla sala della vetrata del Quirinale. Giorgio Napolitano dice di aver riflettuto sulla possibilità di lasciare in anticipo, ma di aver poi deciso di restare fino all'ultimo giorno per concorrere almeno a creare condizioni più favorevoli per sbloccare una situazione politica irrigidita su posizioni inconciliabili. Non è una colomba pasquale, ricorda Lina Palmerini, è la frase con cui Giorgio Napolitano ha esordito prima di leggere appunto il suo comunicato ai giornalisti. Questa appunto anche un dettaglio nella comunicazione intervenuta ieri, una comunicazione che occupa poi con ampio sforzo di pagine tutti i giornali di questa mattina. Ma perché perché questa decisione? Beh, lo ricordava Folli, qui ci sono dei problemi, delle urgenze italiane. Il nostro giornale Sole 24 Ore ha titolato proprio pochissimi giorni fa in modo molto forte, con un basta giochi, per ricordare appunto che non è più il momento di perdersi in manovre, in tattiche, ma servono degli interventi urgenti per alcuni dei problemi più gravi che affliggono il nostro paese, soprattutto la crisi economica. E il Sole 24 Ore questa mattina ricorda appunto che c'è uno sprint sul decreto dei debiti della pubblica amministrazione, cioè i molti miliardi che la pubblica amministrazione non sta pagando alle imprese e che contribuiscono ad acuire la crisi. Ma poi un'altra emergenza, forse l'emergenza maggiore di tutte, quella del lavoro. Sempre sul Sole di oggi, tre interviste ai leader sindacali, a Camusso, Bonanni e Angeletti, le priorità dei leader sindacali, le trovate sul Sole 24 Ore di oggi. Cambiamo argomento per un istante. Sapete che ieri sera abbiamo appreso della scomparsa di Franco Califano, il giorno precedente avevamo appreso della scomparsa di Enzo Iannacci. Oggi, tra i molti ricordi di Enzo Iannacci che potete trovare sui giornali, sul Sole 24 Ore, il ricordo affidato a Elio di Elio e le storie tese. Mi piaceva il dottor Iannacci che faceva piangere, questo il titolo del ricordo di Elio che trovate sul Sole 24 Ore. Un'altra cosa che potete trovare sul Sole di oggi è una serie di indiscrezioni sulla crisi cipriota, un articolo di Beda Romano che spiega appunto come nelle convulse giornate che hanno così portato poi a questo piano fatto anche di prelievi straordinari, un prelievo addirittura che arriva fino al 60% per i conti che superano i 100.000 euro, con congelamenti vari, con obbligo di modificare insomma il proprio investimento sottoscrivendo invece azioni della banca. Ebbene, a queste decisioni si è arrivati con una serie di retroscena che potrebbero quasi sembrare comici se non fossero invece dagli effetti molto pesanti. I 10 giorni che hanno sconvolto la zona euro, scrive Beda Romano, dal 15 al 25 marzo sono stati segnati da riunioni fiume, teleconferenze improvvisate, gaffe, incomprensioni, tensioni, timori, decisioni controverse, alcune rinnegate, altre portate a esempio, scelte dell'ultimo minuto, come quella di Van Rompuy di spedire un aereo militare belga per prelevare d'urgenza il capo di Stato cipriota. Non sarei sorpreso, dice l'economista greco Yanis Varoufakis, se l'epilogo della crisi cipriota venisse registrato negli annali della storia come una svolta cruciale, come il momento in cui l'Europa ha passato il Rubicone. Anastasiades, racconta Beda Romano, si era impuntato per salvare entrambe le banche coinvolte, minacciando le dimissioni, però aveva sottovalutato la situazione. Infatti aveva inviato a Bruxelles il suo ministro del lavoro, così appunto racconta Beda Romano sul Sole di oggi, e naturalmente poi invece c'è stato bisogno dell'intervento del ministro delle finanze, trattandosi di una crisi che coinvolgeva direttamente la finanza. Torniamo sulle cose italiane, debiti PA e rinvio Tares, debiti della pubblica amministrazione, rinvio della Tares, della tassa rifiuti, che una nuova tassa rifiuti che incombe su di noi, dovrebbe scattare da luglio come sapete, ma la sua partenza è legata a due problemi. Il primo, che riguarda tutti noi, che porterebbe un rincaro complessivamente di 1 miliardo. Il secondo è che però, cominciando nei pagamenti soltanto a luglio, sta mettendo in crisi i conti dei comuni, e i quali comuni appunto non hanno in questo momento la liquidità per garantire sempre il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Quindi un dilemma di quelli pesanti. Il governo Monti proprio questa settimana in un Consiglio dei Ministri ha scelto di attendere, non ha preso una decisione. Adesso, essendoci stata anche questa nuova fiducia, per così dire, confermata da Napolitano ieri nel suo discorso, potrebbe arrivare invece un via libera con un ok parlamentare e poi anche un intervento per decreto appunto del Presidente del Consiglio, del confermato potremmo dire Presidente del Consiglio Mario Monti. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. Torniamo invece a una notizia che potreste aver sentito nel giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa, letto da Valeria De Rosa. Paolo Verri racconta sul Giorno, ma lo fanno anche altri quotidiani in verità, della Procura di Varese, dell'indagine della Procura di Varese sul cartello dei petrolieri per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi della benzina, aumenti che appunto secondo l'accusa sarebbero stati concordati in qualche modo dai produttori in modo da essere tutti abbastanza vicini con i prezzi offerti agli automobilisti. Colpo di scena, scrive Paolo Verri sul Giorno, nell'indagine sui rincari dei carburanti aperta dalla Procura della Repubblica di Varese a seguito dell'esposto presentato dal Codacons. Nel marzo dello scorso anno la Procura aprì un'inchiesta accogliendo l'istanza del Codacons, inviò la Guardia di Finanza nelle sedi delle principali compagnie petrolifere italiane. Ora il Tribunale, decidendo sull'istanza di sequestro di tutta una serie di documenti relativi a listini di benzina e gasolio, ha per la prima volta individuato gravi indizi di reato. Si parla di truffa aggravata, le accuse naturalmente sono di truffa aggravata e aggiotaggio relativamente alla formazione dei prezzi dei carburanti in Italia. E il Tribunale poi ha deciso però di investire, ha ordinato di investire di questa questione le procure della Repubblica competenti. Ha detto il giudice, devono indagare le procure di Roma e Milano perché questi reati eventuali, saranno tutti da dimostrare naturalmente, reati di truffa aggravata e aggiotaggio potrebbero essere stati commessi non alla pompa ma nelle sedi dei consigli di amministrazione delle società. L'accusa, ricorda sempre Verri sul Il Giorno, l'accusa è perciò per aver compiuto manovre speculative, aver posto in essere artifizi e raggiri, e la ricostruzione quanto si legge nell'ordinanza del Tribunale, artifizi e raggiri consistenti nell'aver volontariamente livellato, concordandoli salvo modesti scostamenti, i prezzi dei prodotti petroliferi alla pompa, in modo da minimizzare le possibilità di minor guadagno derivanti dall'applicazione dei principi della concorrenza sul mercato nazionale, quindi con un danno economico di un numero indistinto e indeterminabile di fruitori del servizio. Questo ricorda su Il Giorno a proposito appunto di questa inchiesta di cui ora verranno investite appunto le procure di Roma e Milano, inchiesta su come dire, i prezzi fin troppo simili tra di loro dei carburanti. Veniamo a Repubblica e torniamo in qualche modo alla politica. Tra le varie analisi che si accompagnano alla decisione di Napolitano, naturalmente c'è spazio per il ruolo del Partito Democratico con questo congelamento, dice qualcuno, di Bersani, con il ruolo del, naturalmente di Berlusconi e del PDL, ma c'è soprattutto spazio per la reazione dei Movimento 5 Stelle, i grillini che sono soddisfatti della decisione di Napolitano, che sembra accogliere una loro richiesta, ma vengono anche criticati da più di un quotidiano. Vi segnalo quell'antipatia senza genialità, articolo di Francesco Merlo dedicato proprio al tratto che sembra emergere con più costanza da alcuni cittadini, così amano farsi chiamare, di neoeletti in Parlamento, appunto questo tratto di antipatia utilizzata, ostentata quasi, come riferisce Francesco Merlo, anche nelle occasioni pubbliche e anche nei confronti appunto dei cronisti, come è stato per un cronista zittito come precario e quindi un poco meritevole di tutela. Noi ora ci fermiamo un istante, ascoltiamo le informazioni sul traffico. Allora, bentornati, vi stavo dicendo, il Movimento 5 Stelle trova uno spazio particolare su più di un quotidiano per appunto questa considerazione fatta dagli stessi neoeletti del movimento, secondo i quali Napolitano avrebbe in fondo accolto la loro tesi, si va avanti con il governo Monti, e anche perché poi ieri è uscita anche questa idea di scegliere il candidato per il Quirinale, quindi per succedere a Napolitano, online. Grillo cerca un nome per il Colle, riferisce Repubblica, il candidato lo scegliamo online, il capo dello Stato in un click. Beppe Grillo lancia, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica, il referendum online per incoronare il candidato alla presidenza della Repubblica che il Movimento 5 Stelle sosterrà poi in Parlamento. Ma sui comportamenti appunto del neo onorevoli c'è questo articolo di Francesco Merlo che, vi dicevo, prende di mira appunto certi atteggiamenti particolarmente irritanti. Lui parla appunto di antipatia, del tratto dell'antipatia, e dice Merlo: è vero che l'antipatia dei ribelli, come furono Longanesi a destra, Feltrinelli a sinistra, è stata una grande risorsa italiana, ma dare del precario a un giovane giornalista e disprezzarlo perché è pagato 10 euro ad articolo, come stanno facendo da ben due giorni Beppe Grillo e i suoi replicanti con il cronista Vasco Pirri Ardizzone, non è più antipatia rivoluzionaria, ma banale acidità reazionaria, baronale e classista. Questo l'incipit dell'articolo di Francesco Merlo su Repubblica, che poi prosegue con altri esempi di questa antipatia. Tra l'altro viene ricordato anche quando, in occasione dell'incontro trasmesso in streaming, quindi visibile via web, la capogruppo alla Camera Roberta Lombardi disse a Bersani: mi sembra di stare a Ballarò, in modo appunto che viene giudicato antipatico, sempre dall'articolo di Merlo. E poi ancora come racconta sempre Francesco Merlo, la cittadina deputata Jessica Rostellato, che alla Camera si è rifiutata di stringere la mano alla signora Rosi Bindi, già bersaglio, ricorda Merlo, della miserabile derisione berlusconiana. Bene, questa cittadina non fu una purificatrice, sia pure antipatica, ma solo un'antipatica mocciosa dell'asilo Mariuccia. Questo il commento di Merlo, appunto la segnalazione di Merlo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Un passaggio ancora da Repubblica: come sapete ieri c'è stato più di un mugugno, perché nei saggi individuati da Napolitano non c'è nemmeno una donna. Qualche deputato, qualche onorevole ha commentato: si vede che in Italia, onorevole donna, ha commentato, si vede che in Italia non ci sono donne sagge. Naturalmente, al di là della felice battuta, è un dato di fatto che lo stesso Folli sul Sole 24 Ore dice era una svista evitabile, questa poteva essere una svista evitabile. A proposito di donne, però, sempre su Repubblica, donne che mantengono la famiglia, l'ammortizzatore rosa raddoppia, dall'inizio della crisi sono passate dal 4% al 7,4%, e quasi la metà, il 43%, si trova al sud. Le coppie italiane, scrive Agnese Ananasso, le coppie italiane in cui è la sola donna a mantenere la famiglia, con o senza figli, sono raddoppiate, passando da circa 230.000 a oltre 433.000 unità del totale dei nuclei nei quali la donna svolge attività lavorativa. Un altro effetto della crisi economica, un altro effetto della crisi sul lavoro, che, come ricordavamo prima, è una delle emergenze assolute che il governo uscente, entrante, e il Presidente della Repubblica, sia Napolitano sia il suo successore, si troveranno a dover affrontare. Un altro segnale di crisi lo traiamo dal Messaggero: turismo da dopoguerra, annuncia già dalla prima pagina, ristoranti e hotel vuoti, Bergoglio salva Roma, pranzo a casa per 4 su 5 nella giornata di Pasqua, gli albergatori si chiude, capitale in controtendenza grazie al Papa, 5% in più. Niente weekend lunghi fuori città, albergatori che si lamentano, 8,2 milioni dormiranno almeno una notte fuori casa, con un calo del 14% sul 2012 e poche puntate al ristorante. Crisi e maltempo si fanno sentire pesantemente sulle vacanze pasquali in tutto il paese, con una eccezione, a Roma. A Roma, secondo gli addetti ai lavori, si starebbe sfiorando il tutto esaurito, grazie anche alla forte curiosità stata dal nuovo Papa Francesco, riferisce poi nelle pagine interne. Questo era il richiamo di prima pagina. Pasqua di crisi, allarme turismo, alberghi vuoti, è il titolo del pezzo dell'articolo di Alberto Guarnieri. Negli hotel a rischio migliaia di posti di lavoro, e gli albergatori dicono è come nel dopoguerra. Tra le tendenze poi ci segnalano che resiste l'abbacchio. Uova e colombe, per uova e colombe si teme un calo tra il 5 e il 7%, fino all'8% per le uova. In controtendenza risultano i viaggi aerei. L'aeroporto di Roma ha previsto nei giorni di festività il transito di 600.000 passeggeri, quindi un dato invece positivo in mezzo ad altri dati che confermano la poca disponibilità, la poca voglia di spendere e probabilmente anche la minor capacità di spendere che abbiamo tutti quanti anche in occasione di queste festività pasquali. Vi dicevo delle sagge, cioè della mancanza di donne sagge nelle commissioni individuate da Napolitano. Se ne occupa anche Mariella Gramaglia sulla Stampa, che dice: ma le sagge non esistono? Si domanda Mariella Gramaglia sulla Stampa. E sempre sulla Stampa, molto soddisfatto il docente di filosofia del diritto Paolo Becchi, che è vicino al Movimento 5 Stelle, pubblica articoli sul blog di Grillo e ha proprio stato uno dei teorizzatori della prorogazio del governo. La rivincita del professor Becchi: i costituzionalisti sono bestie, il teorico della prorogazio, cioè del proseguimento insomma dell'incarico di Mario Monti, trattato da ubriaco, ma Napolitano mi ha dato ragione. E Mattia Feltri, nell'intervistarlo, comincia dicendo: professor Becchi, chiediamo scusa, anche noi abbiamo scritto che la prorogatio di Monti era insostenibile. Lui dice: prego, ma la critica non è un problema, lo è se mi trattano da idiota, in TV mi guardavano come se fossi ubriaco, adesso è pieno di tweet che invece mi dicono o chi era l'ubriaco. Lo so come vanno le cose, dice Becchi, se i giornaloni sono sui giornaloni scrivono costituzionalisti ben pagati, scrivono sotto dettatura. Questa la polemica risposta appunto del professor Paolo Becchi, che appunto vicino al Movimento 5 Stelle aveva ipotizzato questa soluzione di confermare in carica il governo Monti. E chiudiamo ancora con la Stampa. Pasqua, una festa al risparmio, confermando quanto vedevamo sul Messaggero poco fa. L'Italia rinuncia alle vacanze, è il titolo tranchant dell'articolo che trovate a pagina 21, scritto da Raffaello Masci. Federalberghi dice: in 52 milioni restano a casa, giù la spesa alimentare, il taglio medio è del 10%. Fra trasporti, cibo, alloggio e divertimenti ci sarebbe un budget di 317 euro a persona. Macellai in crisi perché il consumo di carne ovina risulta ridotto del 40%, il consumo di maiale ridotto del 20%. I dati previsionali, riferisce poi il presidente Federalberghi per Nabò Bocca, intervistato da Masci, sono l'ennesima conferma di come l'Italia stia vivendo una crisi epocale. E anche qua si legge: una crisi che rischia di far tornare l'economia turistica ai livelli post seconda guerra mondiale. Bene, con queste parole, certo non sono assolutamente bene auguri, ma auguriamoci invece che tutto questo finisca e si modifichi presto. Auguriamoci anche che i saggi indicati da Napolitano possano trovare una intesa per le emergenze maggiori del paese. L'ultima notizia che vi segnalo: naturalmente ieri è stata anche una giornata di sport, non abbiamo dato conto dei giornali sportivi che danno ampio spazio alla vittoria della Juventus sull'Inter a San Siro. E questa è la nostra ultima segnalazione. collaborazione da parte mia, Mauro Meazza, da parte di Paolo Corleoni che mi ha assistito in regia questa mattina. Una buona giornata e ancora un augurio di buona Pasqua.